Nessuno sa che per un periodo ho sofferto di depressione. Mi chiamo Giulia e sono una ragazza trans. Grazie a questa prima frase vi racconterò la mia storia e perché sono caduta in depressione e il perché ci sono ricascata in questo periodo. Sono caduta in depressione quasi 2 anni fa, è iniziata tutta la storia. Sono caduta in depressione perché avevo perso tutti, avevo perso i miei nonni, avevo perso la fiducia delle persone. Avevo perso tutto. E proprio 2 anni fa ho iniziato a capire che non mi sentivo bene nel mio corpo, che ogni volta che mi guardavo non vedevo me stessa, ma vedevo un ragazzino che era spaventato. In periodo di depressione pensavo molto spesso alla morte. Pensavo che era meglio che io non esistessi perché creavo solamente guai. Preferivo non uscire perché mi sentivo strana. Avevo paura di vivere, ma dopo tutto quel tempo in cui non riuscivo a fare niente, non riuscivo a alzarmi dal letto, non riuscivo ad affrontare la giornata, avevo chiesto aiuto, da sola, senza nessun problema. Avevo chiesto aiuto, sono andata per un anno dalla psicologa che più o meno ha aiutato. Ovviamente speravo in qualcuno più bravo perché molto spesso non tutti i psicoterapeuti sono così bravi, ma quest'anno, qui ho iniziato la prima superiore, mi sentivo meglio perché capivo che c'era gente che forse mi poteva capire. Ho passato un anno bellissimo, ma e non pensavo più a queste cose, pensavo alla felicità, a uscire ogni giorno fiera di me stessa. E però notai che il mio corpo le risentiva perché comunque volevo essere più femminile, volevo essere più una ragazza. E ho iniziato a esserlo, a essere veramente una ragazza, a cercare di cambiare il mio corpo. A iniziare a indossare, scusate, i reggiseni imbottiti, a fare il taking e a vestirmi un po' più femminile, se si può dire. Comunque il mio stile non è cambiato così tanto, mi vesto molto maschile, ma lasciamo stare questo, non importa. E niente, mi sentivo me stessa, l'avevo detto ai miei amici di scuola e mi hanno accettata. Ok, tutto qui. Usavano ancora il vecchio nome perché non l'avevo cambiato. Usavano ancora il pronome maschile e gli dicevo che andava bene perché ancora era presto e ok. Sono passati mesi. E comunque dopo un paio di mesi ti ci abitui al pronome femminile, ma nessuno di lui, loro, nessuno di loro ci ha provato, per quello che ho capito. E per questo sono ricaduta. Ho capito che non c'avevo nessun amico, che ero sola. Che nessuno mi poteva aiutare. Ma ogni giorno cerco di essere forte, perché se non sono forte io, chi può esserlo per me? E niente, so che questo discorso è molto deprimente, ma ho voluto dirvelo perché palesemente, se conoscete o siete ragazzi e ragazze trans, fateci l'abitudine, perché comunque voi lo sapete che non siete dei errori della natura. Dovete sempre dirvelo. Perché se non ve lo dicete, non potete andare avanti. E se avete amici trans o trans, non potete non farci caso a queste cose, perché ogni parola che dicete di sbagliato, quella persona ci soffre, può cascare in depressione, può anche suicidarsi, non scherzo. Molte persone l'hanno fatto. Per questo state attenti a quello che dicete, vi prego. Per non farli cascare come è successo a me, o peggio. E niente. Grazie di avermi ascoltato, se mi avete ascoltata. E ci vedremo in un altro episodio nel mio podcast. Ciao a tutti da Giulia.